Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il cinema è una forma di espressione artistica che somma immagini e suoni. Apparentemente è una banalità, una cosa ovvia. Ma fermiamoci a pensare a un dettaglio. Quanti sono i registi che devono parte della loro carriera a un incontro fortunato con un musicista che è riuscito a regalare loro suoni così evocativi da segnare in maniera indelebile un immaginario? In altre parole, Fellini sarebbe Fellini senza le musiche di Nino Rota, Leone senza Morricone, Tim Burton senza Danny Elfman? La musica a volte dà a un film e a un autore quei tratti e quel sapore che li rendono inconfondibili. Oggi Destini Incrociati ci porta a esplorare un incontro di questo genere. Un regista straordinario, uno dei grandi visionari del cinema europeo, che trova il suo posto nell'immaginario collettivo solo quando incontra un musicista in grado di arricchire le sue immagini con una straordinaria cascata di note. Iniziamo a conoscere il regista. È bosniaco e ha fatto conoscere la cultura balcanica in tutto il mondo. È Emir Kusturica. Emir Kusturica. Emir Kusturica nasce a Sarajevo, in quella che ancora era la Jugoslavia, il 24 novembre del 1954. È figlio unico e suo padre, Murat, lavora al Ministero dell'Informazione. Lui è un bambino vivace, con una fantasia galoppante, un tratto che per fortuna non lo abbandonerà mai e anzi crescerà in misura straordinaria. La sua è una famiglia borghese, con origini serbe, musulmana. La formazione culturale di Emir è lo specchio di quella a Sarajevo, un crogiolo di etnie e religioni che riescono miracolosamente a convivere pacificamente a pochi metri di distanza. Un equilibrio che si rivelerà precario, ma che vale alla città il soprannome di Gerusalemme d'Europa. Crescere nella Jugoslavia degli anni 50, però, significa anche fare i conti con la dittatura del maresciallo Tito. Forse è l'unico modo per tenere insieme quel cocktail di istanze culturali e sociali così differenti. Ed Emir non è proprio un ragazzo tranquillo. Forse le rigidità della dittatura hanno su di lui l'effetto opposto. Innescano quell'ansia di libertà e di evasione che saranno tratti distintivi del suo cinema. Si nutre ossessivamente di film. In un cinema dall'architettura sovietica che d'inverno fa battere i denti per il freddo e d'estate per il caldo torrido toglie il respiro. Inizia a scrivere storie e come tutti i grandi registi che si nutrono di fantasia è istintivamente attratto dalle persone che non riescono a integrarsi, dalla gente che resta ai margini. Gli outsider, i diversi, di ogni genere, numero e caso. Ranni vlak Cię odvaží a ty mizíš mi, zbylo mi jen nádraží, zbyl mi strach a nádraží, v srdci mám tmu a nádraží, v srdci mám prach a nádraží, zbyl mi jen strach a nádraží, co bude dál. Nella capitale cecoslovacca, mentre frequenta con grande entusiasmo la prestigiosa scuola di cinema, Kusturica vive il primo grande incontro destinato a segnargli l'esistenza. A lezione, infatti, un giorno si ritrova in cattedra Miloš Forman, grande regista e sceneggiatore, che a causa del regime comunista si è trasferito in America e che ora è tornato a Praga per tenere un corso. Emir non crede ai suoi occhi, comincia a fare domande, vuole imparare tecniche, trucchi e suggestioni. I due fanno amicizia, passano interi pomeriggi a chiacchierare, di cinema e di vita. Finché Forman finisce il corso e torna in America, dove nel 75 girerà uno dei suoi film più belli, Qualcuno volò sul nido del cuculo, con il mattatore Jack Nicholson. Come forse lei sa o forse no, non importa, è la prima giornata delle finali di baseball. Beh, io vorrei suggerire di spostare l'orario di lavoro di questa sera, così ci vediamo la partita in TV. Beh, signor McMurphy, con la sua proposta lei chiede di cambiare stasera un orario di lavoro minuziosamente studiato. Una cambiatina non guasta mica, no? Per non annoiarsi. Da Forman, Kusturica acquisirà quella volontà di ritrarre in maniera poetica e delicata la vita dei più umili e dei più deboli. Non è però l'unico riferimento che va a nutrire l'immaginario del regista bosniaco. Ma le influenze maggiori che ho ricevuto provengono dall'Italia. Sono sicuramente Fellini, Visconti e De Sica. Il neorealismo. A queste si aggiunge indubbiamente quella di Tarkovsky. Tarkovsky influence. Certo, il neorealismo, con le sue storie fatte di povera gente, cattura il giovane Emir, che lo terrà come punto di riferimento per le sue opere. Ma Emir ha un approccio diverso. Nella sua visione del mondo, la fantasia trasfigura e traduce le forme che stazionano davanti ai suoi occhi. Il suo è un cinema fatto di colori, immaginazione, profumi. Il cineasta che sente più vicino è indubbiamente Fellini. Ma Kusturica riesce a crearsi una visione del cinema e dell'arte assolutamente personali. Nel 74, però, proprio Fellini presenta al mondo il suo nuovo capolavoro, Amarcord. Il film viene proiettato ogni venerdì a Sarajevo, ma Emir torna da Praga il lunedì. Un'amica gli organizza una proiezione speciale. Per lui è una folgorazione. Basta! Non si beve prima della minestra. Sì. Non si deve bere. Ma dov'è che è scritto? Si gonfia lo stomaco, si spende sulla Domenica del Corriere. Volete sta buono con ste mani? Volici manca un cucchiaio, vemogina. E nel 78 Kusturica realizza il suo primo cortometraggio. Si tratta del lavoro finale per il diploma dal titolo Guernica. 25 minuti in bianco e nero che già racchiudono i semi di quello stile grottesco, in bilico tra l'emozione profonda e l'ironia, che lo renderanno unico. Già con questo primo corto, Emir tenta di sottolineare in chiave simbolica e metaforica la profondità e la ricchezza di culture perseguitate, emarginate, disprezzate. Del resto, viene da un paese in continua tensione, con infinite scintille pronte a esplodere, sempre in bilico tra la pace e la guerra. Il pregio di Emir Kusturica è che per esprimere questi concetti non ha bisogno di tante parole, gli bastano le immagini. Dopo il primo cortometraggio, Kusturica comincia a collezionare qualche esperienza da attore, in attesa della grande occasione. Su quelle prime imbarazzanti esperienze da attore ha sempre espresso grande perplessità, con quell'autoironia che mette nei film e nella vita. Non mi metto a recitare nei miei film perché quando mi rivedo, francamente, non mi trovo divertente. L'81 è l'anno della svolta. Esce il suo primo film, Ti ricordi, di Dolly Bell, tratto dal romanzo di Abdullah Sidran, famoso drammaturgo, poeta e scrittore bosniaco. Ti ricordi di Dolly Bell è ambientato nella Sarajevo dei primi anni 60 ed è la storia di un'educazione sentimentale sullo sfondo della Jugoslavia comunista, una Sarajevo dei sobborghi poveri che vuole emanciparsi, che sente il richiamo della società dei consumi, di quel boom economico che dopo la guerra ha toccato gli altri paesi. Fa da leitmotiv musicale la canzone 24.000 baci di Celentano, uno dei tanti omaggi che Kusturica farà alla sua amata Italia. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore, vorrei un istante 1.000 baci, 1.000 carezze voi allora. La pellicola vince a Venezia un premio per la migliore opera prima e ottiene grande successo. Un successo che lusinga e esalta Kusturica, ma che è ancora irrimediabilmente di nicchia. Emir comincia a essere noto negli ambienti dei festival del cinema, tra gli intellettuali. Non raggiunge il grande pubblico. Per un artista dalla spiccata vocazione popolare come lui, manca ancora qualcosa. Oltre al cinema, la grande passione di Emir è la musica. È anche un musicista appassionato di rock e discreto chitarrista. Per quanto la sua carriera musicale sia sempre stata secondaria rispetto a quella di regista, durante le riprese di Ti ricordi di Dolly Bell insieme a un gruppo di amici, decide di fondare una band. È la No Smoking Orchestra, singolare rock band zigana che diventerà in breve l'esponente musicale di riferimento dei New Primitives, un movimento di resistenza culturale sorto negli anni della transizione al dopo Tito. Kusturica si occupa della parte estetica e scenografica e suona la chitarra elettrica. Unza Unza Time è il loro maggiore successo dal ritmo travolgente. Let the beer music be wine, cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, fine. Sarà forse attraverso questa esperienza che Emir comprende che la musica potrebbe essere un elemento chiave per il proprio cinema, la svolta per il grande salto. Ma ancora, non mette a fuoco la reale necessità. Così nel 1985 gira il suo secondo film, Papà è in viaggio d'affari, una commedia sentimentale sincera, delicata, agrodolce, tenera e crudele al tempo stesso. Si tratta ancora una volta di un viaggio nella memoria della Jugoslavia di Tito, vista attraverso gli occhi di un bambino. Mi chiamo Malik Malkoc, ma quasi mai mi chiamano Malik e basta. Sono sempre a dirmi male Malik, male Malik. Il film vince a sorpresa la Palma d'Oro al Festival di Cannes e ottiene una nomination all'Oscar per il miglior film straniero. Dal punto di vista intellettuale e puramente cinefilo è la consacrazione. Ma ancora una volta il suo film, apprezzato da appassionati di cinema di tutto il mondo, non sfonda il muro della semplice nicchia di cultori. Sarà forse colpa del pregiudizio che scontano spesso le opere provenienti dall'Europa dell'Est, talvolta bollate a priori come pesanti o noiose. Resta il fatto che un immaginario così fantasioso e potente come quello di Emir Kusturica ancora non fa presa su quello collettivo. Negli anni successivi il regista si prende una pausa e si dedica solo alla musica, suonando nella sua No Smoking Orchestra. Attende l'idea giusta per il nuovo film con calma. Con la sua band si lancia in una lunga tournée lungo tutti i Balcani, a contatto con realtà diverse e musicisti straordinari conosciuti in numerosi festival. In una breve pausa incastrata tra le date della tournée, mentre sta facendo colazione, Kusturica legge un articolo sul commercio di bambini rom verso l'Italia. Vuole capire, approfondire, entrare con tutto se stesso dentro questa vicenda, perché sente che potrebbe essere quella del suo nuovo film. Così si trasferisce per un certo periodo a Sofia, in Bulgaria, per tuffarsi nel mondo gitano. Partecipa alla vita della comunità, osserva dall'interno, si iscrive anche a una squadra di calcio composta di soli zingari. Ispirato e prolifico, inizia a scrivere quello che sarà il suo capolavoro, Il tempo dei gitani. Ma sente che manca qualcosa. Come si può raccontare quell'atmosfera amara senza la musica giusta? Emir si ricorda di un giovane scapestrato e divertente che aveva incontrato durante il tour. Un professore di filosofia mancato, dedito al rock e con una vena di follia, che da quando ha 16 anni infiamma i suoi coetanei informazioni come bestie, codex, giutro e la più famosa i white bottom. Anche lui è bosniaco ed è il nostro secondo protagonista. Il suo nome è Goran Bregovic. Goran Bregovic. È l'uomo che permetterà alle fantasie di Emir Kusturica di raggiungere l'immaginario collettivo, di diventare riconoscibili in tutto il mondo. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati raccontiamo la storia di uno dei grandi incroci tra musica e immagini che hanno fatto la storia del cinema. Da un lato un regista, uno dei grandi visionari del cinema contemporaneo, un cineasta così grande da essere in grado di far stare un popolo intero in una sola inquadratura. Dall'altro, l'uomo grazie al quale le sue immagini assumono un sapore inconfondibile e diventano riconoscibili in tutto il mondo. Il regista è Emir Kusturica. Il compositore si chiama Goran Bregovic. Scopriamo chi è. Anche Bregovic, come Kusturica, nasce a Sarajevo. Goran è del 1950, per la precisione nasce il 22 marzo. Suo padre, membro dell'Armata Popolare Jugoslava, è di origine croata, mentre sua madre è serba. Dopo il divorzio dei suoi genitori, si trasferisce con la madre nella zona musulmana della città, venendo così a contatto già da piccolo con quel crogiolo di culture e religioni che formavano la Bosnia Erzegovina. Di questa ricchezza non si dimenticherà mai. La gente che non non esce dal suo giardino, può credere nel stereotipi, però per fortuna il mondo non è come sempre in TV. Come molti giovani bosniaci appassionati di musica, viene indirizzato inizialmente verso il violino, ma la scuola di musica in cui viene iscritto dalla madre lo espelle. Il giovane è privo di talento, dicono. Probabilmente è solo pigrizia. Goran infatti ama il rock e vuole suonare la chitarra elettrica. Studia chitarra privatamente e accetta un singolare compromesso con la madre. Si iscrive a un istituto tecnico e accetta di completare gli studi, ma in cambio, come un vero rocker, potrà tenere i capelli lunghi. Così è. E Goran inizia a suonare in una serie di rock band di Sarajevo, chitarra elettrica e basso. Durò poco. Mi cacciarono anche da quella scuola a causa di, diciamo, di un incidente con una Mercedes di proprietà dell'istituto. Così mia madre mi iscrisse ad un liceo, ma intanto la mia attività di musicista era partita bene. D'estate, con le mie varie band, suonavo negli alberghi delle località turistiche della Jugoslavia. Negli anni successivi Bregovic si sposta in Italia, a Napoli per la precisione, dove si mantiene suonando musica in locali, bar e pizzerie. Penso che è difficile trovare un gitano da noi che non parla qualche parola italiana, è proprio un paese preferito, perché Italia aveva sempre cuore per il poveri, perché penso perché Italia ha esperienza con nei suoi periodi di poverezza e di ricchezza e capisce i poveri. I gestori dei locali di Napoli pretendono che suoni folk tradizionale slavo, ma Goran è uno sperimentatore e la sua band sente l'influenza di gruppi duri come Led Zeppelin e Black Sabbath. Sono gli altri che devono accettare le sue condizioni, non è accomodante. Quando non lo vogliono, sbatte la porta e cambia locale. È legato alle sue origini, ma vuole fare musica nuova, innovativa. E questa la marcia in più. Il sincretismo tra suoni del suo paese e metal, per dare vita a quel mix potente e unico che è il rock balcanico. Non suono musica popolare, questo che sono le mie musiche e queste sono le musiche contemporanee. Solo che la contemporaneità da dove io vengo è diversa dalla tua. Allora questo che è contemporaneo per me e per te è vecchio 100 anni. Tornato in patria dopo l'esperienza italiana, in pieno regime comunista, Bregovic si iscrive all'università, facoltà filosofia. Quella che per definizione è la scienza dei liberi pensatori, in patria lo farà laureare come dottore in marxismo. Bregovic salta le lezioni ed entra nei White Bottom, vale a dire quello che diventerà il gruppo rock jugoslavo più famoso degli anni 70 e 80. Il successo da subito è travolgente e Bregovic abbandona gli studi. Se voglio fare i lavori tristi, lavorerò come un professore di filosofia. Se come mi voglio divertire nella vita, sto facendo le musiche, è normale. E si diverte Bregovic sul palco e nella vita. La sua musica accende, è travolgente, ascoltandola non si riesce a stare fermi. Ed è un potente collante sociale, fa cadere le convenzioni, le gerarchie, gli obblighi. Il critico musicale Luzzato Fegiz la sintetizza così. La sua è una musica ad altissimo tasso emotivo e spettacolare. Devo dire che è qualcosa di molto divertente e molto profondo. E infatti per Bregovic suonare è anche parlare un linguaggio universale. La musica era primo che noi avevamo linguaggio di parlare, era lì primo di religione e politica. E per questo che se parli bene questa lingua che si chiama musica, se suoni musica buona napoletana sarebbe la reazione lo stessa tra eschimi e palestinesi, perché parli bene una lingua che si chiama la musica. Così, per tutti gli anni Ottanta, Bregovic gira i Balcani con i suoi White Bottom. È mediamente famoso, ma solo negli ambienti del rock e del folk underground. L'incontro che gli cambia la vita avviene nel 1988, ed è quello con Emir Kusturica. Kusturica Kusturica e Bregovic si erano già incontrati a metà degli anni 70 nel cuore della vita artistica di Sarajevo, ma il destino, si sa, a volte non prende delle scorciatoie. E infatti i due devono aspettare il 1988, quando la Bosnia, tra le macerie politiche dell'ex Jugoslavia, si sta preparando a quello che sarà un conflitto devastante. Kusturica vuole realizzare un film importante, evocativo, Il tempo dei gitani. Vuole curare nei minimi dettagli la colonna sonora. Vuole un musicista in grado di esprimere la cultura gitana e diffonderla con venature rock. Insomma, vuole un musicista in grado di tradurre in immagini la sua follia visiva. E lo trova in Goran Bregovic. Dopo essersi incontrati la seconda volta durante un festival con le rispettive band, basta una telefonata. Bregovic accetta subito. I due iniziano a lavorare incessantemente. Prende forma Il tempo dei gitani, l'opera che fa conoscere a tutto il mondo il cinema di Emir Kusturica e rende uno dei compositori più trendy d'Europa, Goran Bregovic. Per anche credimi, ti supplico. Questo bambino è il nostro. Quando Merzan mi ha presa, io ero già incinta di te e ero al terzo mese. Tu sei una bugiarda, chiudi quella bocca da bugiarda. No, non sono un bugiardo. Scordatelo, non voglio tenermi un bastardo. Quando nasce lo vendiamo e faremo un figlio soltanto nostro, hai capito? Il film va a Cannes e per Kusturica e Bregovic, quella sul red carpet della Croisette, è una passerella trionfale. A Cannes vince il premio per la miglior regia. Non raccoglie altri premi, ma a differenza dei precedenti film di Kusturica, è un successo di pubblico travolgente. Il più grande successo economico internazionale proveniente dalla ex Jugoslavia. Tutto il mondo identifica istantaneamente le musiche scatenate di Bregovic alle immagini folli di Emir Kusturica. Destini incrociati. A Destini incrociati abbiamo raccontato uno dei grandi incroci di musica e immagini della storia del cinema. Un incontro particolare perché avviene al ritmo delle suggestive e straordinarie musiche gitane. Protagonisti sono Emir Kusturica e Goran Bregovic, che con Il tempo dei gitani, il loro primo film insieme, vedono svoltare le loro vite verso la fama internazionale e la consacrazione artistica. La storia di Il tempo dei gitani racconta le vicissitudini del giovane Peran, che per guarire la sorella paralitica si lascia guidare in Italia dal miraggio di facili guadagni. Al suo ritorno, il naufragio della storia d'amore che aveva interrotto trascina tutto nel sangue. È un film che immagini e musiche rendono pura poesia e che senz'altro richiama ancora una volta il cinema di Fellini, fatto di circo ed immagini oniriche. Intanto nel 90 in Jugoslavia scoppia la guerra. Gli odi etnici hanno la meglio sulla solidarietà e la violenza coinvolge tutte le etnie e le religioni. Il principio della pulizia etnica ne fa un conflitto sanguinosissimo e disumano. Bregovic e Kusturica non sono interessati a difendere il paese, sono nomadi nell'animo e non condividono il concetto di nazione. Si rifugiano insieme a Parigi, dove passano mesi a suonare, parlare, scrivere, bere e incontrare persone di tutto il mondo. Il sodalizio umano e creativo è indissolubile, tanto che quando Kusturica viene chiamato dal regista Miloš Forman, suo mentore negli Stati Uniti, vuole a tutti i costi Bregovic con sé. Dal canto suo Bregovic è orgoglioso e lusingato, ammira Kusturica e vuole continuare a lavorare con lui. Fare le più belle musiche nel mondo per un film che non è buono è proprio un cadavere morto che nessuno sveglia più. È un po' come credere se prendi una buona banda per funerale che fa alzare il cadavere. Non fa, è morto morto. E così per la prima volta negli Stati Uniti nel 92 i due realizzano insieme Arizona Dream. Il cast è stellare. Johnny Depp, Jerry Lewis, Vincent Gallo. Kusturica sfrutta nel migliore dei modi le logiche produttive di Hollywood e fa un film più concreto, diretto, puro. La colonna sonora, ancora una volta a firma di Bregovic, contiene anche una delle migliori recenti performance di Iggy Pop. Bregovic gli affianca un'orchestra di vecchi gitani che soffiano nelle loro trombe anteguerra e suonano dei corni di bue. Il film è un fiasco ai botteghini statunitensi, mentre in Europa è un nuovo successo di pubblico e critica. A howling wind is whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. Dopo Arizona Dream, per la coppia Kusturica-Bregovic, è il momento di Underground del 95. È il vero capolavoro della coppia, il punto più alto della loro collaborazione, e frutta un'altra palma d'oro al Festival di Cannes al regista. Il film è visivamente straordinario, ma l'elemento che lo rende un'opera unica e acclamato in tutto il mondo è la straordinaria colonna sonora di Goran Bregovic. Il film, ricco di metafore, parla di guerra, devastazione, della volontaria assenza di informazione da parte del regime di Tito, di religione. La presenza della musica di Bregovic è dilagante e travolgente. Chi ci bombarda adesso? Gli alleati. Quando non ci bombardano i tedeschi, ci bombardano gli alleati. Dove vai? Ma... nel sotterraneo. Resta con me. Resta con me. Hai paura? Non quando sono con te. Il film scatena anche numerose polemiche. Il giornalista Alain Finkiel, che su Le Monde, agita lo spettro di finanziamenti serbi per la realizzazione. Un oltraggio feroce per un bosniaco, per un uomo che ha assistito al massacro della propria gente da parte dei serbi. Parte della stampa inizia a dipingere Kusturica come un uomo cinico che specula sulle disgrazie della propria terra e dei suoi abitanti. Come in ogni luogo del mondo, anche nei Balcani, la parabola del successo è breve, rapida, imprevedibile. Il risultato di questa situazione tesa, però, è anche un litigio feroce proprio con Bregovic. Nessuno saprà mai i motivi nei dettagli. Improvvisamente, però, due vecchi compagni di avventure, di chiacchierate, di bevute e di successi, ma soprattutto due uomini, il cui sodalizio era stato fondamentale per le rispettive carriere, smettono di parlarsi, come conferma lo stesso Bregovic. Il mondo slavo è un mondo dove è tutto esagerante. O siamo troppo felici senza ragione, o siamo troppo tristi. È un po' così. I primi anni da separati sono un periodo tormentato e difficile per entrambi. Tutti e due sentono di aver perso un compagno di viaggio, ma sono troppo orgogliosi per tornare indietro. Così sfidano il futuro da soli, senza l'appoggio dell'altro, e dimostreranno che l'incontro è stato magico proprio perché era un'alchimia tra due genialità. Nulla sarà più come prima. Il successivo film di Kusturica, Gatto Nero, Gatto Bianco, è musicato direttamente dalla sua band, la No Smoking Orchestra. Ma il film è da molti punti di vista un fiasco, come se la forza immaginifica del regista bosniaco fosse spuntata una volta privata della musica di Bregovic. Dal canto suo, Bregovic gira il mondo con il suo funambolico gruppo di musicisti, la Funeral and Wedding Orchestra. Allestisce inoltre una sperimentale Carmen in salsa zigana, ispirata alla Carmen di Bizet. L'effetto è straordinario, travolgente. Questa è un'opera dei poveri, che racconta una storia di loro, che racconta una storia vera, come forse nei tempi di Bizet la sua storia è forse una delle storie vere della vita gitana a questa epoca, perché in questa epoca le storie gitane erano romantiche. Le storie gitane di oggi sono dure e abbastanza difficili. La vita è un miracolo, l'episodio Gypsy Blues di All the Invisible Children, il documentario su Maradona. Sono gli ultimi lavori di Kusturica, lavori in colori e sottotono, come le altre colonne sonore scritte da Bregovic, che nel frattempo ha fatto il suo esordio come attore e prepara quello come regista. Ma la sensazione è che quel periodo dei primi anni 90 resti irripetibile. Quel periodo in cui l'incrocio di destini, delle vite, del genio di questi due straordinari zingari ha portato a capolavori che si sono depositati nell'immaginario collettivo. Sono tanti, in tutto il mondo, i fan di quei piccoli gioielli di follia e di stravaganza che sono i film realizzati insieme da Emir Kusturica e Goran Bregovic. E tutti loro sperano che possano un giorno ricucire lo strappo e regalare nuovi squarci di allegria e malinconia zigane al mondo intero. Ecco stasera mi piace così, con queste stelle appiccicate al cielo,